Bene, rientrati in diretta, abbiamo ascoltato questo splendido lavoro di Pelt. Pelt, Dauphin Elegies, un disco appunto del 2008, l'abbiamo ovviamente rimesso dopo il GR di Radio Popolare Network come di base facciamo, dato che il brano era stato nella fine della prima parte della trasmissione, ovviamente un po' limitato e ridotto dall'intervento del GR, dunque abbiamo voluto omaggiare in maniera adeguata un brano che era già di per sé piuttosto corto, quasi una sorta di cameo rispetto al disco uscito nel 2008 per i Pelt, inserendo appunto la parte rimanente nel rientro della trasmissione. Ricordiamo anche per coloro che si fossero messi in ascolto solo in questo istante sulle frequenze di Radio Città del Capo che la trasmissione in programma in onda attualmente è 451 frammenti sonori e stasera abbiamo dedicato la puntata a un argomento abbastanza particolare, musica immediata, l'impro di nuova generazione. Abbiamo voluto, diciamo, declinare questo argomento sull'immediatezza, la peculiarità dell'impro che abbiamo voluto rivedere e diciamo definire nella nuova generazione degli anni zero, con progetti che non si rifanno, non si devono, almeno per il nostro obiettivo iniziale, rifare completamente e in maniera puntuale all'impro storica degli anni 60-70, ma che sviluppano dei linguaggi improvvisativi nuovi, anche abbastanza eclettici e differenti fra di loro. Nella prima parte abbiamo aperto con questo progetto assolutamente innovativo di Mandarin Movie, disco omonimo del 2006, un progetto che ha visto appunto nello sviluppo del disco stesso, nel brano che abbiamo selezionato, che è il brano di chiusura dell'album, un'idea appunto di un suono sicuramente molto vicino anche al rumore, al noise di derivazione più strettamente americana della nuova scena, ma ovviamente con delle improvvisazioni interne abbastanza particolari, poi coniugato con un progetto invece ossatura italiano verso il disco uscito nel 2002, che si muove tra un'improvvisazione elettroacustica ed elettronica assolutamente interessante e innovativa. Poi siamo passati attraverso Food, progetto non particolarmente conosciuto ma molto interessante soprattutto nel disco che abbiamo inserito, Organic and GM Food del 2002, chiudendo poi il nostro percorso della prima parte della puntata con Pelt, Dauphin Elegies, appunto il brano che abbiamo inserito e reinserito poi nella seconda parte, uscito nel 2008. Ora sentiamo sempre in sottofondo i Pelt più conosciuti, quelli che diciamo hanno attraversato di più il discorso dronico, mentre il brano che abbiamo inserito si muoveva su delle dimensioni assolutamente differenti, una sorta di improvvisazione inserita in una sorta di ninna nanna sognante abbastanza eterea. E ora rientriamo di nuovo nella seconda parte, nel pieno della puntata di stasera, con un progetto che è assolutamente dirompente per il suono che sviluppa e anche per l'ecletticità delle composizioni. Sì, si tratta di Fire, un nuovo progetto della Rune Gramophone, che a dire la verità già un po' attraversato la prima parte, che è stata ben riassunta dal puntualissimo Elio Scarpa, puntualissimo. Grazie. Ovvero Food per molti aspetti sono legati a Rune Gramophone, ma è quindi alla parte più sperimentale di ECM, visto che poi ECM targa e marchia anche in una certa qual maniera, in maniera piuttosto insomma personale, seppur poi questa faccenda qua potrebbe anche essere messa in discussione per un suono nord europeo. Sicuramente si è fatto molto molto personale nel corso degli anni passati, dei decenni anzi passati, visto che l'ECM esiste dalla fine degli anni 60, primi 70, ma con Rune Gramophone la faccenda diventa più curiosa, più interessante per noi sicuramente di 451 frammenti sonori, ma anche per chi ascolta musiche, chi cerca anche nelle musiche nuove creazioni, nuove forme di espressione. Sicuramente Fire rappresentano queste nuove voglie, nuovi desideri aperti a musicalità che vanno tanto dal contemporanei jazz, o quindi questo incrocio tra new jazz, post free, improvvisativo e musiche contemporanee, e addirittura un rock, come sentirete anche nel pezzo che tra pochissimo vi faremo ascoltare, che va a prendere proprio dalle psichedelie, si sente proprio un impatto che non è neanche post rock, è proprio rock, dentro appunto comunque tessiture che vanno a riecheggiare evidentemente quello che è stato un percorso che questa sera insomma è titolato proprio all'impro. Questa però è di assolutamente nuova generazione, il disco è uscito qualche mese fa, formazione nuovissima. Se non ci fosse il cameo di un grande dell'improvvisazione radicale, ovvero Matt Gustafson, che ce lo portiamo dietro dagli anni Ottanta, che conosciamo bene e speriamo che conosciate bene anche voi tramite 451 e non solo, visto che insomma ha fatto insieme a Ken Vandermark probabilmente già alla fine degli anni Ottanta una sorta di traiettoria immaginifica della nuova improvvisazione che l'ha portato a collaborare con gente come Sonic Youth, fino a collaborazioni con vari elementi noise di varia natura, sempre americaneggiante ma non solo, faccende molto molto particolari. E tra l'altro Gustafsson fa anche un omaggio al Nord Europa, al jazz nord europeo, perché ricordiamoci ci fu la grande diaspora dei free jazzisti proprio alla fine degli anni 60, che molti insomma si rifugiarono appunto nelle terre nordiche perché più propense alle loro musiche radicali, quindi lì anche per quello è nata la nuovo jazz, la musica improvvisativa appunto sulle ceneri poi del free jazz. E in questo caso appunto Matt Gustafsson scopre proprio questi nuovi Fire proprio dalla Svezia, e quindi, come dire, un omaggio che viene tributato da un americano a una formazione nuova svedese, è una sorta anche di rimando a quello che è successo storicamente di fatto alle musiche radicali del new jazz. Fire quindi in questo caso, You Liked Me 5 Minutes Ago. Ce lo chiediamo, chissà quale sarà la risposta. Chissà. Andiamo? Certo. Fire, seconda parte di 451. E finisce con un feedback che va a morire nella migliore tradizione del rock più psichedelico, più di viaggio mentale, musicale, sonoro, ma dentro appunto questa progettualità Fire, e mi correggo, Matt Gustafsson è evidentemente svedese come i nostri Fire, Ken Vandermark che citavo prima invece è americano, ma i cognomi insomma sono interscambiabili, poi comunque Gustafsson per tanti versi è collegato con l'America, come probabilmente lo saranno anche i Fire, perché c'è questo scambio incredibile dopo tanti anni dove sembrava che negli Stati Uniti fosse preclusa una musica tanto radicale. Per tanti versi c'è stato anche una sorta di censura anche politica, a dirla proprio tutta, nel senso che molti dei free jazzisti alla fine degli anni 60 si dichiaravano marxisti o comunque vicini al Black Panther o vicini a movimenti radicali, e quindi negli anni 70, quando insomma l'America incominciò anche a reagire in maniera piuttosto violenta all'interno del suo territorio rispetto a movimenti antagonisti e rivoluzionari, beh, una delle cose che sicuramente fu censurata fu la musica free jazzistica e post free, tant'è che sia Anthony Braxton che Art Ensemble Chicago insomma non hanno avuto vita proprio facilissima, come d'altronde tutti i radicali americani hanno avuto un bel po' di problemi soprattutto negli anni 70, per poi non parlare degli anni 80, dove poi veramente venivano quasi presi a pernacchie, visto che c'era il trionfo del reganismo, del capitalismo, e questi sono i risultati insomma, no? A distanza di 30 anni di quel trionfo lì. E i nuovi invece musicisti americani usciti insomma dalla generazione degli anni 90 sicuramente hanno ripreso questo collegamento, quindi da una parte si sono ripresi anche musicalità che sono nate nel loro territorio, ma poi in realtà si sono talmente internazionalizzate proprio trasferendosi in Europa e avendo quel respiro evidentemente, inevitabilmente anche globale, che si sono veramente innervate di tante possibilità e che rendono ancora le musiche improvvisative, l'attitudine improvvisativa veramente tanto, tanto ricca, seppur lo stiamo sottolineando più di una volta questa sera, c'è un fil rouge molto molto forte, molto marcato, anche politico, perché comunque se tante cose insomma si sono cibate di post, invece le musiche improvvisative non hanno voluto tanto saperne di postmodernità varie, per tanti versi si sono radicate dentro una modernità rivoluzionaria, avanguardistica, e anch'essa è rivendicata dentro queste nuove attitudini che noi insomma con anche una certa gioia e assolutamente una certa vicinanza di linguaggi mettiamo insomma dentro questo piccolo contenitore che si chiama 450, piccolo che resiste ancora dopo 10 anni, resiste a tutti sti infami infatti, e dunque all'infamità che girano intorno a noi, effettivamente è dura, ma siamo ancora qui e dunque non so in che condizioni, perché non lo possiamo dire noi, dovrebbero dircelo gli ascoltatori e conoscenti più stretti che ci vedono in 10 anni come ci siamo ridotti. Al di là di questo, ci spostiamo dopo questa splendida e assolutamente articolata presentazione di Fire col punto esclamativo, perché questo non lo possiamo ovviamente dire, perché lo potete solo leggere, se lo volete cercare nei motori di ricerca è Fire, come fuoco in inglese, col punto esclamativo. Grande progetto, splendido il brano selezionato, ma splendido veramente tutto il disco, You Like Me 5 Minutes Ago, 2009, dunque uscito l'anno scorso. E adesso ci spostiamo ancora in terra anglosassone, già prima ci siamo passati, e andiamo a trovare una formazione che esce chiaramente dalla tradizione improvvisativa inglese, in particolar modo un personaggio che ha poi collaborato con i grandi della scena improvvisativa e anche della scena più aperta e sperimentale in ambito improvvisativo, caratterizzata sicuramente da personaggi che noi amiamo particolarmente come il grande Derek Bailey, ma non dimentichiamo Eric Ho, e anche formazioni che hanno tra impro e un prog canterburiano, in questo caso con Eric Ho, ma Derek Bailey o Cecil Taylor e Evan Parker, personaggi insomma che hanno lasciato tutta una bella traccia sulla musica d'avanguardia e sull'improvvisazione radicale. E questo personaggio chiaramente Tim Hodgson, che insieme a Thomas Lane e Roger Turner costituiscono questa formazione alla fine degli anni 90, i Conk Pack, che debuttano appunto alla fine degli anni 90 con un ottimo disco molto ben recensito, Big Deep, e poi continuano con altri lavori per arrivare poi al disco che secondo il nostro parere è sicuramente il più interessante, Warp Out, uscito nel 2001. Formazione che si muove in parte sugli stili e sui canovacci, potremmo dire canovacci, molto canovacci, della musica improvvisativa storica degli anni 60-70, quella radicale, ma che introduce anche elementi nuovi, soprattutto in termini di dialettica col suono elettronico e con dei suoni minimali che arrivano in alcuni momenti a contrastare dal silenzio e suoni minimali a momenti dove addirittura delle forme rumoriste di noise vero e proprio esplodono. Ci andiamo a sentire un brano da questo splendido lavoro Warp Out del 2001, Conk Pack, e dunque ritorniamo di nuovo in Inghilterra. Thank you. e via di tribaleggiamenti con Chris Corsano insieme a Jaco Tolvi. Jaco Tolvi, già il cognome ve la dice lunga, viene dal nord Europa, dalla quella friggezza che questa sera, anzi impro per meglio dirla, insomma impro radicale di quei paesi come Svezia, Finlandia, Norvegia, che hanno espresso insomma una scuola autoctona o per molti versi influenzata da quello che è stato il grande lascito del free. In questo caso si trovavano, e di nuovo insomma l'asse Nord Europa America insieme a Chris Corsano, che invece viene dal noise americano, quello tremendista, con Harry Pussy, che era una delle cose più assurde mai viste, mai sentite, soprattutto Non-Hack Blues Band, quindi una sorta di free folk assurdista, ma anche collaborazioni con il sassofonista Paul Flaherty, con Sonic Youth, formazioni poi legate al noise americano come Lightning Bolt, e ricordiamo anche il progetto insieme a Carlos Ghifoni, sono stati conosciuti poi in realtà proprio con Death Unit, sia Chris Corsano che il nostro Ghifoni, che poi insomma diventerà protagonista del Non Fan Festival, quindi di questo nuovo modo di improvvisare, di nuova attitudine legata all'improvvisazione, in questo caso il noise, ma anche musicalità, e qua la dice lunga insomma Corsano insieme a Jaco Tolvi, che vanno a prendere tanto dal jazz come da forme assolutamente liberate e free di musicalità altre, di grande insomma fantasia compositiva o decompositiva, insomma poi il giochino potrebbe essere anche tirato alla lunga, visto che tante volte partono da composizioni per decomporre e creare il nuovo, e altre volte invece fanno l'esatto opposto, partono proprio da strutture assolutamente aperte e magari compongono appunto da quelle musiche immediate che si cibano di entrambi, come anche potrebbe essere musiche di improvvisazione su schemi, eccetera eccetera. Veramente qua potremmo andare alla lunga, come d'altronde alla lunga sta andando anche Eliseo Scarpa. Beh, direi di sì, che stasera ti sei vestito anche da prete con una sciarpa viola. Perché c'ho la sciarpa viola? Viola, ho detto la tua mania viola. Ho aperto un po' la sciarpa viola porta fortuna, insomma. Sì, no? Cosa sei diventato tifoso della Fiorentina? No, visto che segui il calcio, ecco una cosa che non ho svelato mai in 10 anni è questa. Beh, ma non devi dirla adesso, però lo devi dire tra altri 10, capito? Dopo i 20 anni puoi dirlo. Vabbè, dopo queste dissertazioni sulla vita e sulle opere mie, andiamo a presentare il prossimo progetto che si muove ancora una volta. Ogni volta che tocca a me parlo di Inghilterra, forse dovrei andare in Inghilterra. Progetto nato a Londra. Andrebbe sicuramente meglio. Secondo me non ci vuole molto. E si tratta di un progetto nato addirittura nel 1984, un progetto di improvvisazione, ma un'improvvisazione che devo dire per l'epoca era abbastanza d'avanguardia e direi che può stare perfettamente dentro il discorso che facciamo stasera, connesso al fatto che è un'improvvisazione che non si basa sulla classica, diciamo, improvvisazione jazz o radicale, ma nasce da un'improvvisazione di musica elettronica molto vicino alle improvvisazioni ad esempio che sviluppava John Cage o Stockhausen, o particolarmente gli A&M, che sono stati la formazione più importante su questa Cornelius Card, con la musica elettronica viva. E sono stati appunto insieme appunto allo stesso Cardius quelli che hanno sviluppato questo discorso connesso all'improvvisazione elettronica, e loro rientrano perfettamente, collettivo aperto con vari musicisti che hanno transitato nel corso degli anni, ormai si tratta di 25 anni di vita, e nella fine degli anni 90 escono con uno splendido lavoro, Stromatolites, uscito appunto nel 98, dove emerge ancora questa attitudine connessa all'improvvisazione elettronica, e questo disco uscito per la Vintage Electronics e appunto un'idea appunto connessa ancora a questo progetto di improvvisazione elettronica. E in questo lavoro ci sono ovviamente sia registrazioni che vengono poi trattate live a livello improvvisativo e sì ovviamente anche utilizzazione in diretta di strumentazioni elettroniche. Lo stesso titolo poi del disco che andiamo a sentire è un progetto appunto unico, Stromatolites, connesso appunto all'utilizzo di alcune particolari forme di strumentazioni elettroniche che creano appunto un insieme di collegamenti sonori e anche numerari, dunque connesso a un'idea quasi matematica anche dello sviluppo improvvisativo che sarebbe anche interessante da sviluppare e da spiegare, da entrare più nella profondità del discorso matematico, ma che rischiamo di allungarci ulteriormente nella spiegazione e anche creare un certo imbarazzo, perché sì, appunto il rischio poi anche di perdere, che non siamo dei matematici, ma sicuramente è qualcosa da andare ancora a riscoprire o a ricercare. Chi è interessato a farlo lo può tranquillamente trovare su internet. Stromatolites, andiamocelo ad ascoltare. La traccia è la traccia numero 2, intitolata Stromatolites 2. splendido questo flusso sonoro, un muro estremamente scuro, sicuramente inquietante, che ricorda in questa forma improvvisativa elettronica molto riferimento alla musica industriale. Non a caso i Morphogenesis erano anche connessi, le primissime produzioni degli anni 80 erano proprio collegate alle produzioni industriali, quelle più avanzate e vicine all'elettronica contemporanea di ricerca e d'avanguardia, come ad esempio formazioni come Affler Trio, ma soprattutto Mnemonist, che abbiamo messo in passato con lo splendido disco Ord, ma tutta una scena comunque della musica industriale che veniva definita tra virgolette più colta, ma poi in realtà sono definizioni abbastanza ridicole rispetto a tutta una scena che era ben più che colta, andava oltre il concetto quasi borghese o accademico del colto. Però purtroppo scattano anche queste etichettature. Stromatolitis, dobbiamo dire anche e correggersi, in realtà il disco che abbiamo inserito è una ristampa del 98, ma in realtà il lavoro è datato 1991 e per certi versi si sente, c'è ancora l'ondata lunga della musica industriale, si sta per affacciare l'isolazionismo, insomma siamo in una fase intermedia storica e molto interessante. Un disco comunque molto bello, ancora molto attuale, e nel 91 appunto esprimono quest'idea di improvvisazione elettronica che appunto incontra sia in parte l'avanguardia storica elettronica che abbiamo citato precedentemente nella presentazione, sia appunto l'avanguardia legata alla musica più prettamente industriale. Da Morphogenesis ci spostiamo verso la fine con un altro importante progetto. Andiamo in terra finlandese, nel frattempo Eliseo si trucca attaccandosi assurdità in viso, creandosi delle sorte di buchi, ma voi non potete vederlo, non vi perdete granché. No, comunque, però sono anche cose interessanti, si sperimenta anche sul corpo, no? Certo, sì, fa una sorta di body art della munnezza. Ma oltre questo, insomma, andiamo a ascoltare anche a finire la puntata di 451 dedicata alla musica immediata, all'impro di nuova generazione, e sicuramente tra i progetti più interessanti, così a chiusura mettiamo anche una faccenda piuttosto nuova, Avarus, finlandesi. Beh, è molto particolare perché Avarus, partendo da una sorta di psichedelia improvvisativa, una sorta di folk noise, ci sarebbe stato bene magari in una vecchia trasmissione di 451 che trovate proprio agli arbori del blog. Già parlo di arbori del blog. Arbori del blog, che non è soltanto un gioco di blog arbu, ma bensì è un'autocitazione. Tu finisci di fare esperimenti col tuo corpo, perché poi potresti mutare definitivamente. Già, insomma, sei messo come sei messo. Grazie, sei molto. Aiuti molto tutto questo. Beh, lo sai che insomma sono come al solito un caterpillar. Insomma, quando vedo un momento di cedimento vado proprio di contro per definitivamente umiliarlo. No, a parte gli scherzi, insomma, da questo stranissimo connubio finlandese di psichedelia improvvisata, noise folk e una natura piuttosto ambigua legata a una sorta di esoterismo musicale, un po' la Morphogenesis, quindi qualcosa che è memore, insomma, di certe faccende industrial, e un'aria vagamente noir anche per quanto riguarda il metal drone, la Sanò, insomma faccende piuttosto grosse, anche piuttosto scure, che danno questa nuova forma improvvisativa assai interessante dentro la progettualità di Avarus e anche dentro quello che è un po' il giro che si sta facendo intorno a Avarus e a questa sorta di neofolk improvvisativo e decisamente scuro. Boh, tra paradossi vari si muove questa musica, sicuramente fascinosa, e tra l'altro, tra l'altro che sto usando per esprimere Avarus, c'è questa dedica a Providence, dove è nata proprio la scena noise, impro noise americana, che stiamo trattando tanto negli ultimi anni. Negli ultimi anni, qua 451. Saluta, caro. Ah, è vero, salutiamo, mandiamo il brano di Avarus e vi aspettiamo per domenica prossima, sempre alle 23:30, sulle frequenze di Radio Città del Capo. Ma sei velocissimo, una cosa straordinaria. Potresti andare a colpi veloce così, no? Va bene, dai, fate, basta, facciamo un po' troppo deficienti. No, però... Però sei contento, sì. No? Mm. Sì. Sì. Sapessi. È meglio che non lo sanno gli ascoltatori. Quanto sei contento. Ma in questo periodo, guarda. Lasciamoli con... Lasciamoli con... Se, insomma, è una felicità un po' Avarus. Un po' Avarus, un po' avara. Anche. Un po' avara, in quel senso. Grazie. Ciao, caro. Ciao, buonanotte e vi aspettiamo domenica prossima, mi raccomando, eh. Ja tulevaisuus näyttää kaikki kauheimmita näillä asioilla. Thank you.